inizio paternalistico, dai, te lo chiedo come favore personale, la situazione degenera, mi dici no dopo tutto quello che ho fatto per te, e a quel punto Cassano sbatte le porte, gli dà del vecchio di merda, figlio di qui, figlio di là, madri, mestieri antichissimi, parolacce in dialetto, sporte sbattute, uno zoo pallonaro che racconta Malcolm Pagani sul fatto davvero incredibile, tanto che oggi anche Mancini, ex gloria della Sampdoria, oggi allenatore in Inghilterra, dice in un'intervista al Secolo XIX: Garrone, presidente, perdona Cassano. Questo è il tema, perdona Cassano. Mi spiace che sia successo, ma va perdonato, chissà. Ci fermiamo qui, votate il sondaggio. Un signor olandese ha portato la moglie italiana a morire in Olanda, era alimentata col sondino come Luana Englaro, non volevo che diventasse come lei un caso per anni. Che ne pensate? Ora il GR. 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:20 minuti. La protagonista della nostra intervista è l'onorevole Paola Binetti dell'UDC. Buongiorno, onorevole. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, dal punto di vista del governo, qualcuno, ancora ieri Berlusconi in un'anticipazione di Bruno Vespa, dice: ma perché no aprire all'UDC? Secondo lei è il momento in cui l'UDC potrebbe rafforzare la maggioranza? Allora, l'UDC ha ripetuto diverse volte che c'è la disponibilità a partecipare a un'operazione che dia risposte molto più sensate a tutto il nostro paese, ma non a questo governo così com'è attualmente, e non a fare da stampella esterna a un contesto in cui le decisioni sono state già prese e molte volte sono in contrasto con quella che è la linea politica dell'UDC. Quindi non a questo governo. Non in questo momento. Ma anche lei sente, come qualcuno scrive sui giornali, la sensazione di, qualcuno definisce fine regno comunque di un... Assolutamente sì, ma penso che questa sia la percezione diffusa tra tutti gli italiani di buon senso. Si è chiusa un'epoca, anche perché di quest'epoca si è veramente toccato il fondo. E quindi adesso stiamo tutti aspettando come avverrà di fatto la transizione. Alcuni di noi ovviamente auspicano che la transizione avvenga in un determinato senso, ma è probabile che altri auspichino che la transizione avvenga in un senso diverso. Cioè lei lo dà per scontato, si tratta non di se, ma di quando e di come. No, è un sistema che ormai è completamente collassato. Il bipolarismo a cui abbiamo assistito in questo periodo non ha prodotto francamente nulla di buono, ma questo glielo dicono gli italiani. E sa che noi stiamo in questo momento discutendo la legge di bilancio, no? Sì. Sa che hanno cancellato la social card, hanno cancellato il fondo per la non autosufficienza, hanno cancellato le risorse per le politiche sociali. Ma sa che c'è gente che in questi giorni si pone davvero il problema se può ordinare il gasolio per l'inverno o se può davvero in che modo fronteggiare i costi, che soprattutto per gli anziani, lo diciamo tante volte, ma è vero per le persone disabili. Cioè, noi abbiamo gente che è davvero al lumicino. Lei dice a questo governo, lei dice, in queste condizioni, quindi l'UDC no, ma questa forma complessiva di governo di cui è responsabile un bipolarismo, chiamiamolo pure molte volte malato, molte volte caratterizzato più dall'invalidazione reciproca che non dalla ricerca di soluzioni per il paese. Senta, le chiedo, onorevole, da donna che effetto le fa vedere oggi è spuntata sui giornali un'altra presunta escort, ma insomma i giornali legge anche lei, quello che sta succedendo lo vede. Guardi, lo vede anche lei, che pensa? Assolutamente insopportabile. Io sono una persona convinta del valore della famiglia, ne abbiamo parlato qualche volta, sono totalmente convinta del valore del matrimonio, sono a favore, sono perfino monogamica, sono a favore della fedeltà come valore, dei vincoli familiari come il più potente e in questo momento disgraziato anche il più potente ammortizzatore sociale, oltre che la migliore condizione che ha ognuno di noi per sperare in un proprio futuro qualunque cosa accada. Senza famiglia è ben difficile immaginare una prospettiva di futuro serena per ognuno di noi. Guardi, l'idea che tutto questo venga, come dire, legittimato, l'idea che, guardi, io ero contraria perfino al Grande Fratello, ma in questo momento in cui tutto lo scenario politico sembra diventato una sorta di Grande Fratello, invece di aver, come dire, chiuso una trasmissione, abbiamo aperto una società trasformandola in una specie di grande mega show io lo trovo veramente insopportabile. Senta, insopportabile. C'è poi questa battuta sulla quale le devo chiedere, anche lei in passato ha avuto qualche polemica e qualche problema con la comunità omosessuale per qualche dichiarazione, insomma, che ne pensa di Berlusconi che dice meglio amare le ragazze che essere omosessuale? Io direi una cosa diversa, meglio amare una ragazza e amarla davvero, di amarla fino in fondo e farmi carico anche di tutte le difficoltà che possono esserci in qualunque relazione umana per superarla. Meglio amare questo, non si può, capito, porre come alternativa. Vedi, anche questo è una forma di bipolarismo, cioè o hai tante ragazze una dietro l'altra oppure sei gay, con tutto quello che implica. Poi tenga presente che il mio tema rispetto alla cultura gay, no? Sono le persone nella loro singolarità, ognuno delle quali ha una storia, ognuno delle quali ha, come dire, un suo profilo personale. Il tema è se, assurdo a livello di modello politico, questo diventi matrimonio gay, adozioni gay e tutto quello che significa. È questa, diciamo, dal punto di vista del politico, che lei, la posizione rispetto alla quale lei mi trova del tutto contraria. Poi rispetto alla persona singola, ognuno deve vivere con la massima dignità possibile la sua situazione. Ma questa frase io di trovo che abbiamo bisogno di recuperare questo senso della dignità, sì, a tutti i livelli. E questa quando sui giornali lei legge una escort pagata 10.000 euro, ma lo sa che ci sono pensionati che 10.000 euro li guadagnano in un anno? Vabbè, ma si dice ognuno dei propri soldi può disporre, insomma, sarà un giudizio morale, però ognuno dei propri soldi. No, io è anche un giudizio sociale, dico, se ci sono 10.000 euro e non facciamo un'operazione che vada incontro ad anziani e veramente vada incontro a necessità e a bisogni reali. Beh, con 10.000 euro però non è che si fa molto per il paese, voglio dire. No, ha perfettamente ragione, però si risolve il problema di una persona. E questa com'è che il modello analogo risolve il problema di una persona. Vabbè, insomma, per concludere, lei questa battuta di Berlusconi non l'avrebbe fatta, insomma, quello meglio essere. No, io non solo non l'avrei fatta, ma trovo che costruirci intorno una cultura mediatica senza rendersi conto che contemporaneamente il Parlamento sta cancellando fondi essenziali, il Parlamento intendo dire anche il governo, fondi essenziali per tutte le fasce sociali e le fasce più deboli, trovo che è una specie di complicità indiretta, probabilmente non voluta, ma è una complicità della stampa anche che si fa trascinare in una dialettica squallida, senza rendersi conto di bisogni reali che meriterebbero, come di dire, essere approfonditi, una visibilità e un posizionamento nell'opinione pubblica più alta. La ringrazio, onorevole, buona giornata ovviamente. Onorevole Paola Binetti dell'UDC. Noi ci fermiamo per pubblicità e meteo, poi parliamo di questo caso di cronaca, spunto del nostro sondaggio. Un signore olandese non voleva che sua moglie diventasse un altro caso Eluana Englaro, era alimentata artificialmente e dunque l'ha portata in Olanda, dove sono state espletate le volontà della donna che voleva il distacco dell'alimentazione artificiale. Vi sentite di condannarlo moralmente, insomma, come gesto? Radio24.it per votare, 800 24 0024 se volete intervenire tra pochissimo. 24 mattino. Sono le 8:32 minuti, eccoci qua nuovamente in diretta per parlare del nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Un sondaggio che prende spunto da una vicenda di cronaca, una vicenda dolorosa, riguarda Anna Busato, una donna originaria della provincia di Venezia, che da un anno si trovava in una situazione di alimentazione artificiale, uno stato vegetativo. La signora aveva compilato un testamento biologico dicendo io voglio rifiutare quel tipo di intervento, ma sapete che in Italia la legge sul testamento biologico non c'è. E allora il marito, che è un cittadino olandese, dopo vari appelli inascoltati in Italia perché la legge sul testamento biologico pure non c'è, cosa ha fatto? Ha preso sua moglie, l'ha portata in Olanda, dove invece di fronte alla richiesta voglio rifiutare questo tipo di trattamento scritta, la volontà espressa, manifesta della donna, i medici hanno rispettato questa volontà e hanno dunque staccato l'alimentazione e la donna ovviamente è morta. Un tema che rilancia la questione del testamento biologico. Noi vi chiediamo, vi sentite di condannare moralmente questo signore, che io ringrazio, capisco che la domanda è brutale, è qui con noi e tra poco lo saluto. Tra l'altro devo dire che per il momento l'80% degli ascoltatori su Radio24.it dice no, non lo condanniamo. Io ne vorrò parlare anche con Beppino Englaro, che ritrovo con piacere. Buongiorno Englaro, ben ritrovato. Buongiorno a voi. E il padre di Luana, sapete, per 17 anni si è battuto affinché venisse riconosciuto alla figlia il diritto di rifiutare l'alimentazione artificiale. C'è riuscito con una sentenza della magistratura e con tutte le polemiche feroci che ricorderete. Saluto anche Assuntina Morresi, editorialista di Avvenire, del Foglio, membro del Comitato Nazionale di Bioetica. Buongiorno, buongiorno Morresi. Buongiorno. E voglio davvero ringraziare per essere con noi, sono giorni ovviamente difficili, il signor Martin van der Burgt, che saluto. Buongiorno signor Martin. Buongiorno. È il marito di Anna. Intanto le chiedo, perché ha preso questa decisione di portarla in Olanda? Il motivo è quello che c'era il testamento di vita, il testamento biologico, che mi chiedeva di farlo. Questo è il motivo principale. Lei ieri, quando ci siamo parlati, abbiamo fatto una chiacchierata, mi ha detto che lei vorrebbe che la morte di sua moglie non sia una morte vana, e cioè vuole in qualche modo porre questo problema del testamento biologico, che in Italia non c'è, e porre quale tipo di problematica alla politica, all'opinione pubblica. Sì, perché Anna è morta. Però se la morte di Anna può cambiare qualcosina nella politica, nelle leggi italiane, per consentire anche ad altre persone di seguire questa strada, non sarebbe morta in vano. Questo è per come lo penso io. E come la pensa lei? Lei non ha mai avuto dubbi, anche sua moglie non aveva mai avuto dubbi sul fatto che, trovandosi in quelle condizioni, bisognava comportarsi così come lei si è comportato? Cioè non ha mai avuto dubbi neanche fino all'ultimo momento lei? No, dubbi mai. La decisione di farlo è difficile, però dubbi no. Bisogna capire che è un testamento come un testamento italiano per la proprietà, va eseguito. Un testamento di vita è alla stessa proprietà, bisogna farlo se la persona la chiede. E che cosa ha trovato in Olanda che in Italia invece non ha trovato? Cioè cosa le dicevano i medici in Italia? Perché lei prima ha posto questa domanda a diversi, credo, medici in Italia. In Italia l'ho posto a un medico, primario di rianimazione qua a Milano, l'ospedale. Quando Anna è arrivata in pronto soccorso, ho fatto sapere che c'era il testamento di vita, che spiegava che in una situazione di vita senza vita non voleva restare in vita e voleva morire. E mi ha risposto in 10 secondi: non vale in Italia, punto. E così l'hanno messo in rianimazione e l'hanno salvato. Qua c'è il padre di Eluana. È vero che lei ha detto: io non volevo che diventasse un altro caso Eluana Englaro, cioè 17 anni di sentenze, controsentenze, polemiche? Quando ho capito che Anna era in uno stato vegetativo, sapevo che qua in Italia non c'era nessuna possibilità di eseguire il testamento che ha fatto, e per questo dall'inizio di quest'anno ho sempre cercato un modo per portarla via in Olanda, solo che per un bel po' di mesi io quasi non credevo più di poter farlo, perché la procedura è difficile, però alla fine ci sono riuscito a portarla in Olanda, perché era l'unico modo. Era l'unico modo, cioè non voleva. Lei come definirebbe la vicenda di Eluana? Un'odissea che in Italia non avrebbe voluto rivivere, o come? L'avrà seguita, immagino. Abbiamo seguito, non so cosa dire. L'unica cosa che so è che il padre di Eluana ha fatto qualcosa coraggioso. Lui ha fatto che Eluana è morta, però poi la porta qua in Italia per questi casi era chiusa, perché la legge c'è ancora in Parlamento. Se io avrei fatto qualcosa in Italia, il giorno dopo ci sarebbe quella legge che mi impedisce di farlo. Certo, credo. Certo, sì, beh, certo, in Italia sì. La legge poi sul testamento biologico in prima lettura è stata approvata, poi si è arenata. Io rimango con noi, signor Martin. Vorrei, Beppino Englaro, io per carità non bisogna commentare le storie personali, però ha sentito anche lei la vicenda di signor Martin, e dice: in Italia non mi veniva concesso, in Olanda sono andato, la possibilità era anche data dal fatto che la signora aveva il doppio passaporto olandese, e quindi ho risolto la questione così. Come dobbiamo giudicare questo gesto? Guardi, quando lui agita nella trasparenza e nella legalità c'è tutto, no? Cioè nel momento in cui dice questa è la trasparenza, questa è la legalità, c'è il piano morale secondo lei da tirare in ballo oppure no? Ma vale il primato della coscienza personale, quando il signor Vandenburg è a posto con la sua coscienza, quindi è a posto con la sua coscienza, agito nella trasparenza e nella legalità, cosa ci si può attendere di più da un cittadino? Sentiamo su questo Assuntina Morresi, che ne pensa lei? Ma io penso quello che ho scritto anche in occasione della storia di Luana Englaro, e cioè che non tutte le libertà possono diventare dei diritti esigibili. Se uno ha la libertà di ritenere la propria vita non degna, non sopportabile, e può buttarsi da un ponte, ma non può pretendere che lo Stato garantisca il diritto che qualcuno ce lo butti. Quindi con questo ragionamento, io non entro nel giudizio delle vicende personali, perché le vicende personali debbono rimanere tali, però ragionando su un fenomeno, un comportamento del genere, questo significa che per esempio di fronte a un suicida manifesto nessuno dovrebbe intervenire, perché è chiara la volontà di farla finita. Cioè lei paragonerebbe a questo, diciamo la situazione è paragonabile, voglio dire, lei dice uno può decidere autonomamente di togliersi la vita, ma paragona invece questa situazione come qualcuno che ha tolto la vita a questa persona, quello che è successo. Io sto dicendo che la signora diceva preferisco, se non ho capito male, preferisco non vivere piuttosto che vivere così. Sì, questo l'aveva scritto nel testamento biologico, che esatto. Però in Italia non ha alcuna valenza giuridica, come sappiamo. Certo, non ha alcuna valenza giuridica e quindi possono essere solo scritture private, e quindi dico che è la stessa situazione in cui si trova una persona che può pensare insopportabile la propria vita per mille motivi, ci sono motivi di malattia, di situazioni personali insopportabili, di lutti, ci sono mille motivi per cui una persona in tutta cioè nella sua coscienza possa ritenere la propria vita insopportabile. Questo però significa che se valesse questo per sempre, per tutti i casi, di fronte a una persona che vuole smetterla da sola, questo qui sarebbe un diritto e nessuno potrebbe intervenire. Qui però c'è il punto sul quale vorrei coinvolgere Beppino Englaro, perché per anni si è battuto per far cercare di passare questo messaggio, vale a dire quello che è contenuto nell'articolo 32 della Costituzione, cioè in questo caso, come nel caso di sua figlia, c'era quello che lei definisce un trattamento sanitario. Sa che la comunità scientifica invece dice non è un trattamento sanitario, non è una cura, è una terapia e dunque non rifiutabile, vale a dire l'alimentazione artificiale, insomma il cosiddetto sondino. Ecco, Englaro ha sentito la posizione di Assuntina Morresi, dice è come se qualcuno dice sì, uno può ritenere uno stato di vita non sopportabile, ma non può pretendere che uno stato o comunque una persona, un medico, applichi questa sua volontà. No, guardi una cosa, nella vicenda di Luana c'è stato questo, e Luana non voleva, cioè aveva le idee molto chiare riguardo alla sua vita, si era espressa. E c'è scritto anche una lettera neanche un mese prima dell'incidente, dove dice noi tre formiamo un nucleo molto forte basato sul rispetto e l'aiuto reciproco. Lei si era espressa che nella condizione nella quale si è venuta a trovare avrebbe rifiutato l'offerta terapeutica che gli è stata, tutto lì. Noi abbiamo in base alla Costituzione il diritto di disporre della nostra salute, e per il fatto poi di trovarsi non più nella condizione di esprimere questo diritto, è chiaro che noi davamo per scontato, e qui siamo stati ingenui, che dando le voce venissero prese in considerazione le sue indicazioni. Lei sa che la sentenza della Corte Suprema di Cassazione dice chiaro, deve escludersi che il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite, allorché da essa ne consegue il sacrificio del bene vita. E questo che valeva Luana, cioè anche già in una prima fase, una volta che è passata la prima emergenza, dialogando con i medici, sapendo come ci hanno espresso loro che lo stato dell'arte della medicina era di poco superiore allo zero e le incognite erano a 360 gradi, lei avrebbe detto un semplice no grazie all'offerta terapeutica, andata oltre. Certo, quello che lei chiama offerta terapeutica, però Assuntina Morresi, per lei, cioè il trattamento, quello che è scritto anche nella legge sul testamento biologico, che poi non è stata approvata in via definitiva, è invece considerato per lei non una terapia rifiutabile, ma una cura Assuntina Morresi, secondo lei? Guardi, io dico solo questo, Una cura che vuol dire che un medico deve dare sempre e comunque. Guardi, se una persona che è allettata non viene mobilizzata, non viene pulita, sicuramente muore presto, perché si formano delle piaghe, si infettano e muore di quello, non muore della malattia per cui è rimasta allettata, intendo un tetraplegico, lo stesso stato vegetativo, ma nessuno direbbe che è una cura mobilizzarla, anche se tenendola immobile questa persona morirebbe. Io dubito che si possa dire che con una sacca di acqua glucosata si cura lo stato vegetativo o si curano stati terminali, sono questioni che permettono di sopravvivere ma non curano nulla, quindi sottrarre ciò che permette di sopravvivere non è sottrarre una terapia. Ripeto, l'acqua glucosata non cura nulla, se l'acqua glucosata curasse lo stato vegetativo saremmo di fronte a una straordinaria scoperta scientifica, insomma, quindi la differenza è lì. È la stessa cosa che mobilizzare o pulire. Sicuramente se una persona che è in grado di dare il consenso non volesse essere pulita, non volesse essere toccata, non volesse essere mobilizzata, si porrebbe un problema, perché non è una cura, ma la persona non mobilizzata, non pulita, di cui non si cura l'igiene, morirebbe per incuria e non per mancanza di terapia per la malattia. Questa è la differenza. Io non sto dicendo che non è possibile rifiutare le terapie nel senso di trattamenti medici, è chiaro, su questo vorrei essere molto chiara. Io dico che bisogna distinguere tra l'incuria e le terapie. Ripeto, la sacca di glucosio, di acqua glucosata, non penso si possa ritenere la cura per lo stato vegetativo. Saremmo di fronte a una scoperta scientifica, ripeto. Allora, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi ritorniamo con Beppino Englaro, Assuntina Morresi e voglio ripartire anche da Martin van der Burgt. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, devo dire che il 90% dei nostri ascoltatori che stanno votando dicono no, non ci sentiamo di condannare questo signore che è con noi, Martin van der Burgt, che alla richiesta di applicare il testamento biologico in Italia per la moglie è dovuto andare in Olanda, dove si è potuta staccare, insomma, l'alimentazione che teneva in vita la moglie. Un caso che richiama la vicenda di Luana Englaro, anche se poi ogni caso è diverso. Vorrei sentire che ne pensa Fabio da Vicenza, ci ha chiamato l'800 24 00 24. Fabio. Sì, buongiorno, buongiorno a lei. Dica. Io ho ascoltato soprattutto il signor Englaro e la signora. Sì. Devo dire due o tre cose mi sono venute in mente. La signora parla del fatto che la sacca di acqua glucosata non costituisce una cura. E poi dice che il diritto del malato a rifiutare le cure e rifiutare ciò che lo tiene in vita sono tutte e due esigibili, diciamo. La signora dimentica che quella sacca glucosata è esattamente ciò che la tiene in vita e il malato ha detto che non vuole più vivere, quindi sì. La signora gioca con le parole. Gioca con le parole, dice. Va bene, grazie Fabio. Daniele da Livorno, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io annotavo il fatto che la signora paragonava il fatto di uno che si vuole suicidare buttandosi da un ponte o una persona così, c'è molta differenza. Insomma, la persona che si vuole buttare da un ponte si può tentare di fare una chiacchierata e fargli cambiare idea e tornare indietro. Una persona già morta nel letto non ci fa ma niente, lei dice è andata, già, ormai è andata. Capisce, ma vede, lei ormai è andata, è questo stato di vita che lei definisce ormai andata, che per molti è uno stato della vita, lei e Daniele la definisce così. Io vorrei tornare per un attimo da Martin van der Burgt. Ha ascoltato, signor Martin, insomma, il dibattito che c'è sul testamento biologico, eccetera. Sua moglie seguì il caso Englaro, nel senso che parere espresse su questa vicenda? Perché mi risulta che il testamento biologico scritto dalla sua moglie risale a diversi anni fa, cioè anche se in Italia non vale, voi lo scriveste già diversi anni fa. Il primo l'abbiamo già fatto in Olanda. In Olanda. Perché là aveva valore. Poi, tornato qui in Italia, l'abbiamo riscritto ogni tot anni perché altrimenti non perderebbe il valore. Sì. Quando abbiamo sentito del caso di Luana, ne abbiamo parlato e abbiamo anche sentito i commenti da parte della Chiesa che è contrario a qualsiasi introduzione della vita che loro chiamano vita, che io chiamo vita senza vita. Ecco, lei come la definisce? Perché capisce che questo è un tema importante. Cioè, sua moglie, secondo lei, è morta quando è stato staccato il sondino oppure la considerava già morta? Io la considero morta dal 4 novembre dell'anno scorso, del 2009. Quando c'è stato l'aneurisma. Sì, sì. E tanti cercano a convincermi che era ancora in vita. Qualcuno poco tempo fa l'ha fatto anche con la Bibbia, spiegandomi che la parola in ebreo per anima e respiro è quello stesso. Così respirava ancora fino a qualche settimana fa. Ho detto no, un anno fa non respirava più. Pompavano dentro aria per far funzionare il cuore. Questo mi convince. Questo la convince. Io so che molti ascoltatori, per esempio, ci chiedono, non è una scelta più coraggiosa? Ma qui chiaramente sono domande, ci perdoni, che entrano poi nella sua sfera intima, nel suo convincimento morale, lei può avere giustamente il suo. Non è una scelta più coraggiosa invece assistere una persona sempre e comunque in qualunque stadio fino alla fine? Forse io non lo vedo così, non è coraggioso, perché in Italia se una persona rimane in uno stato vegetativo c'è un'organizzazione intorno che ti aiuta, c'è il distretto dell'ULS che ti aiuta, ci sono infermieri, c'è il medico di famiglia, c'è aiuto, però va contro la volontà della mia moglie. E questo è il discorso. E la volontà di sua moglie, secondo lei, deve prevalere su tutto? Sì, sì. È un testamento vale. Anche se un testamento non è gradevole, bisogna farlo. A me non era, quel testamento mio andava bene, perché ho fatto stesso testamento, anche io. Però era un testamento bisogna farlo. Bisogna rispettarlo. Beppino Englaro, perché la legge sul testamento biologico che si è arenata, per carità, questa dimostrazione che forse non c'era tutta quella grande urgenza, no? Della politica, questa aperta parentesi che si manifestò nei giorni nel febbraio del 2009, quando insomma gli ultimi momenti insomma concitati. Esattamente, loro hanno creato quella volta, hanno reagito in una maniera molto scomposta. Credevano di mettere a punto una legge o un decreto in pochi giorni, e questo non è stato. Adesso si rendono conto di queste difficoltà. Ma il problema di fondo per me rimane la libertà di cura, di terapia, di non rimanere scoperti nel dialogo medico-paziente da subito, perché la persona non può essere discriminata. Quando sono capace di intendere e di volere, posso dire di sì o di no a qualsiasi tipo di terapia e di cura, ma anche all'alimentazione e all'idratazione. Nessuno può obbligarmi ad alimentarmi e idratarmi per legge, è talmente chiaro. Quindi questa legge è anticostituzionale e valgono i principi. Loro non hanno letto attentamente i principi di diritto in uno stato di diritto che sono nella sentenza del 16 ottobre del 2007. Io mi devo fermare, mi risponda con un sì o con un no. Lei non sapeva che sarebbe durata 17 anni, signor Englaro, ma rifarebbe tutta questa vicenda? Ma guardi, io ho reagito in tempi reali e proprio in tempi reali, perché l'Eluana si era espressa. Sapeva quello che poteva accettare o no. Cioè, che il problema di fondo è che sia lei a decidere, cioè sì, quasi sì, una cosa. Sì. Nessuna volontà esterna, fosse posta ed espressa da tutti i cittadini o dal Parlamento unanime, può prendere il posto di quella dell'interessato. Noi gli abbiamo dovuto dar voce, lei ci aveva scritto che faceva affidamento sulla sua famiglia. No, ma su questo è chiarissimo. Io mi devo fermare ringraziando davvero tutti. Dico solo l'appuntamento a domattina 7:20.